Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per l'attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Oh sì, io di solito leggo la posta destinata alla nostra trasmissione soltanto la domenica mattina quando arrivo in radio. Soltanto oggi ho preso visione della quantità di messaggi con cui una cinquantina di ascoltatori mi segnala, in risposta al mio appello della settimana scorsa, un buon antivirus. Hanno anche tutti capito a quale antivirus mi riferivo io, anche se me l'ho preso nota, me l'ho preso cura di non indicarlo per non fare pubblicità a nessuno. Li ringrazio tutti, naturalmente, li ringrazio tutti commosso e vedrò cosa fare. Nel frattempo potete ascoltare la replica della nostra trasmissione il mercoledì notte dopo l'ultima edizione del notiziario. Magari non sarà una replica freschissima, può capitare che sia di un paio di trasmissioni prima, ma sapete come vanno queste cose, e troverete i siti, e troverete i testi sul sito.